Thank you. Thank you. Thank you. tiene quella luna dentro il tramonto. Ha fatto il giro del mondo. Te lo trovo, ti mando un link. Ci sarà qui, ci vedi i giorni. Stambo lo vedo, ci trovi su internet, te lo trovo. Qui ha fatto questa foto era bellissima, che si vedeva la luna, gli stava sorgendo, insomma, si vedeva da lontano. E da come l'ha preso lui, la luna sembrava che stava dentro il trabocco, dentro il trabocco. Ha fatto il giro del mondo quella foto. E mo te lo trovo, anzi, me lo segno, ma se no lo scordo. Aspetta, fammi vedere. No, che c'è? Che è della telegiornale? Ma il telegiornale l'ha detto, che stai scherzando? Vai, quindi, vediamo un po', aspetta, fammi vedere qua. Ah, mo per segno qua, aspetta. Luna. Ah, grazie a tutti. Aspetta, fammi salutare allora. Grazie. Ha finito. Ah, quello che stava su noi non era per me, non apposta. L'ho salutato, va bene. Hai visto? Che hai scritto? È rotta. Risulta su diversi siti, quindi. Foto del giorno della NASA. Sì, è andata a finire la NASA sta foto. Hai visto? Ma io convinto perché ho avuto una notizia talmente che risaltava, che poi mi sono scordato, però ho pensato impossibile che non l'hai visto. Capito? No, avevo pensato che era impossibile. Perché era tutto il giornale, la notizia è proprio spapariata, dovunque accendevi ci stavo quel giorno. È andata a finire la NASA, ha fatto il giro del mondo. Mo si deve mandare la fotografia quella della cosa della Vespa con i sensi vietati attaccati alle ruote. Al posto delle ruote. Quel di Vieste. Una Vespa rossa. No, la Vespa rossa lungo il corso di Vieste. Ho fatto una foto perché c'aveva i sensi vietati. Sembrava che le ruote erano un divieto di sosta e un divieto di transito. Sembrava che erano le ruote della Vespa, se te la ricordi quella foto, la Vespa rossa, a Vieste.